tell your little boyfriend. Quasi 7 miliardi di persone da sfamare ogni giorno nel mondo. Solo un decimo della superficie del pianeta coltivata. L'agricoltura è una sfida che richiede impegno e tecnologia. EIMA International. 200.000 metri quadrati di esposizione. 1.600 industrie costruttrici. 25.000 modelli di macchine e attrezzature. 150.000 operatori da ogni parte del mondo. EIMA International 2010. Tecnologia a misura di agricoltura. Fiera di Bologna dal 10 al 14 novembre. 2 anni gratuiti di garanzia e di assicurazione. Furto e incendio su tutto l'usato aziendale. Renault! Anche in radio il nostro usato funziona benissimo. Renault Selection, l'usato garantito. Fino al 30 novembre in tutte le concessionarie aderenti all'iniziativa. Autec, via San Donato 3/2, quarto inferiore. È passione dal 1993. Si tiene a Bevilacqua, ma si beve soprattutto birra. L'associazione Bevilacqua for Fun presenta November Fest seconda edizione. Dall'11 al 14 novembre, live music, cibo e fiumi di ottima birra. Domenica 14, happy hour dalle 17. November Fest a Bevilacqua di Crevalcore, in locale chiuso e riscaldato. Vieni all'Iperfamina, c'è risparmio per te! Una sfornata di risparmio ti aspetta, fragrante, stuzzicante! Fino al 13 novembre il sottocosto Iperfamina è come il pane, irresistibile! E allora non resistere, tanti prodotti, prezzi incredibili e il gusto quotidiano di pagarli meno di noi! Irresistibile! Iperfamina, vantaggi per tutti! Resterà l'eco. Ecco. Finisport del centro svuota tutto. Sconti fino al 70% su articoli sportivi, calzature, moda, sci e scarponi. Da Finisport Centro Borgo, marchi come Nike, Adidas, Reebok, Puma, Asics, Converse, Le Coq Sportif. Tra palestra, moda, calcio e sci. Presto, o non troverai più niente. Chi l'ha detto che i regali sono un problema? Con i regali di Liviana risolvi ogni dubbio e regali emozioni vere. Liste nozze personalizzate, bomboniere che rendono indimenticabile ogni occasione, articoli per la casa e la cucina, compresi i piccoli elettrodomestici, marche prestigiose come Thun e Swarovski. I regali di Liviana, a Bologna in via del Triunvirato 32, uscita 4 aeroporto. Portaci la tua vecchia pentola e avrai uno sconto di 25 euro sull'acquisto di una nuova antiaderente. Che noia questo stress. E che stress questa noia. Ma cara, regaliamoci un weekend rigenerante al Villaggio della Salute Più. Due giorni e due notti, fra terme, vero relax e buona cucina. Al Villaggio della Salute Più, weekend rigenerante contro lo stress e notti azzurre per un colpo di vita contro la noia. Villaggio della Salute Più, uscita a 14 Castel San Pietro, 051 92 97 91, villaggiodellasalute.it. Parade. Ancora ciao a tutti voi da Antonio Valli, siamo pronti a scoprire le prossime canzoni in scaletta nella Weekend Parade di Radio Bruno. Tra poco Vipin Trip di Fabri Fibra dall'album Controcultura. Controcultura è anche il nome del tour di Fabri Fibra che arriverà il 6 dicembre all'Alcatraz di Milano e l'11 dicembre alla Sassuolo di Firenze. A seguire ci sono The Script che ascolteremo con We Cry. Anche la band irlandese verrà in Italia per fare un concerto con l'anno nuovo, il 10 febbraio all'Alcatraz di Milano. Subito c'è Michael Bublé con Hollywood. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? So you want to be a rock star with no happiness in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation, or will you set the latest style? You don't need to catch your song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go. Passi per caso, pensi che la beva? Come chi vota Lega? Disco fancadellistico, non è questo. La storia è acida, quando la senti fai ah. Sto male come Lucio Dalla, regionale via da Senigallia. Non vedevo l'ora di andare via, ora non vedo l'ora di ritornare a casa. Apro il cancello ma la porta è diversa e c'è un altro cognome sul campanello. Più vuoi e meno avrai, più dai e io dovevo lavorare, lavorare, lavorare, ancora lavorare, ancora lavorare, ancora lavorare. Beh, comunque ho il suo cellulare, ogni tanto le messaggio dico ciao, come stai? Lei mi risponde, ci vediamo, scoppiamo, è strano, un tempo ero io che la cercavo. Ma non ero abbastanza famoso, che troppo non va con chi è poco famoso. Poi becca il tronista e chi l'ha più vista, oggi invece mi chiama, mi cerca, mi ama. Volessi farmela sì che potrei, ma che tristezza, bamboli di pezza, mi domandi. E perché non te le fai? Perché c'ho paura di più buoni e meno avrai. E meno prendi, prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni, prima lo si impara, poi rapper italiani che per epe qua qua qua qua per epe, politici italiani che per epe qua qua qua qua per epe, più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara. Un amico che si chiama da solo, si manda i messaggi con scritto tesoro, si guarda allo specchio dicendo ti adoro. Vorrei dirgli, ma trovati un lavoro, cazzo, ma trovati un lavoro, cazzo, trovati una ragazza, cazzo. Me lo diceva mia madre da ragazzo, lo disse al figlio anche la madre di Mar. Ora vai a capire che c'è dietro, anzi vai a capire chi c'è dietro. Mille strofe, rime catastrofe, l'opposto, l'apostrofo, apposto, l'apposto. Io coi vostri testi ortodossi mi ci pulisco il culo, come Bossi, quale cantautore, vaffanculo, al rallentatore, vaffanculo. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni, prima lo si impara, poi rapper italiani che per epe qua qua qua qua per epe, politici italiani che per epe qua qua qua qua per epe, più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara. Weekend Parade. A poor girl living in a rich world. Named her baby Hope when she was just 14. She was hoping for a better world for this little girl. But the apple doesn't fall too far from the tree. When she gets that call, Hope's too far gone. Her baby's on the way with nothing left inside. Together we cry. About the John Wayne, could have gone the whole way. Tighten up the stage, trying to get a deal. Now he's lighting up the wrong way. Something for the pain, man. You wanna see this kid? He was so unreal. When he gets that call, he's too far gone. Can't get together to sing one song. They won't hear tonight the words of a lullaby. A politician, she'd been dreaming about it since she was a girl. She thought that she'd be the one who could change the world. Always trying to pave the way for women in a man's world. Life happened, house, kids, two cars, husband hits the jar, checks that don't go very far now. Now she ain't making changes, she keeps her mind on her wages. The only rattling cage is has to die. It's hard to let your children go, leave home, where they go, who knows, getting drunk and stoned all alone, teach your man to fish, feed your man for life. to show your kids the truth, hope they never lie. Instead of reading in a letter that they're gone to something better, bet you're sorry now, I won't be coming home tonight. I'm sick of looking for those heroes in the sky to teach us how to fly. Together we cry, together we cry. Tra poco nel Weekend Parade di Radio Bruno, protagonisti due di picche che ascolteremo con Fare a meno di te. La canzone fa parte dell'album C'eravamo tanto odiati, due di picche, ovvero JX e Neffa. A seguire Robbie Williams. Il suo recente Greatest Hits, In and Out of Consciousness, occupa la sesta posizione nella classifica degli album più venduti in Italia. Lo ascolteremo con uno dei suoi grandi successi, ovvero Millennium. Subito c'è Bruno Mars con Just the Way You Are. The same. So don't even bother asking if you look okay.